c'è quello piccolino e lo metto da una parte e mi serve lì. Santiago 7, Giulio, riprendi e fai girare per Eugenio. Dai, poco, è poco così, cosa vuoi che sia? Con un'antenna autocostruita, cosa vuoi che sia? È con pochissimi watt, 10, anzi scarsi anche, 10 watt scarsi, saranno 8 all'incirca, là, più o meno. Va bene, vai, lascia lì, vai, riprendi. Giulio, che capsula monta il Turner più 3 da tavolo? Perché io non ho avuto, ce l'ho avuto, però non ho avuto occasione di vedere la capsula, perché mi serve una capsula di quelle. Caro amico, la capsula di quelle è introvabile, guarda, perché è una capsula ceramica, 600 ohm, ma è tutta particolare, non è una capsula mastodontica come dimensioni, per cui non la trovi assolutamente, ne devi adattare qualche altra così, da 600 ohm comunque vuole, per andare bene, ceramica, perché quella è ceramica, non è a condensatore, per cui vedi un po' tu, vai e fai girare poi, vai. No, per cambiare la capsula. Infatti non la trovo. Allora Giulio, sai chi è che monta la capsula del Turner più 3? Gianni lo sa, Gianni doppio room. Allora, la capsula del Turner più 3 è l'unico microfono normale che la monta, è il microfono del Tokai 5024 600 ohm ceramica. Ecco perché pompa un bel quel microfono. Ma è mastodontica e non si può mettere nell'IMB più 4, capito? Lo so, forse ci sta nell'IMB più 4, non lo so, forse ci sta perché è molto largo la serie di sopra, forse ci sta, forse. Però devi trovarti un microfono del Tokai in disuso. Ed è da 600 ohm. Da 600 ohm ceramica è anche la capsula originale, il microfono originale dell'HB23, Giulio. Anche quella è da 600 ohm ceramica, però sono grandi, capito? Faccio girare per Eugenio, ma c'è anche un break. Ciao Vannino, buonasera. Avanti Eugenio, fai girare tu, fai entrare il break. Ehi, avanti il break con la buonasera, mi raccomando. Tutte cose, ecco se cade, eh? Avanti. Buonasera a tutti, scusate da questa parte, mi serviva un controllo di Santiago di radio per diretta. La tumba fra le denti. Tu Claudio, l'idea è come sto uscendo, specialmente di radio. Perché questo microfono che ho usato? Francesco è da usilo. Va bene, prendi Claudio. Sì, guarda, se non mi dicevi che è uranio io non ti avrei riconosciuto. Il segnale è 8. La radio è bassa per me, è bassa, ho dovuto sollevare il volume. Non so come ti ascolti Giulio nella bassa valle, tu lo senti meglio? No, lo sento peggio, perché lo sento bassissimo di segnale e la radio lo stesso, non è un granché, comunque già riesco a tirarlo fuori, intorno ai 5 di segnale, Francesco, la radio è bassa, però già ti sento, ti mando avanti Gianni. Ciao Francesco, mi sentito? Santiago 7 Radio 3 qua. Santiago 7 Radio 3 ora. È aumentato, ma è brutta la radio, Frace. È aumentato, anche qua sei tra il 7 e l'8, non ti ho mai sentito così basso. Però la radio è brutta, è tutta strappata, non è comprensibile, Frace. L'altro giorno ci va bene. Anche tu caro ci ciao Marco. Sì, guarda che ti ascolto qua sta arrivando. Mi stavo parlando, non vedi, con tutti di 9 a 30 tu, è una roba di 5 persone, ciao. È come se fosse vibrata. Certo Francesco, più aumenti e peggio è inutile che aumenti, è tutta gracchiante, sei tutto distorto, devi abbassare, non aumentare. Ciao Marco. Mi hai capito Uranio? Aspettate, le regoliamo, vai. Sulla via sinistra del microfono. 1, 2, 3, prova, vedi un po' adesso com'è? Abbassa ancora un pelo. Ok, vedi un po' adesso, 1, 2, 3, prova, come siamo adesso? Un pelino ancora, un pelino solo. Perfetto, vedi un po' adesso, 1, 2, 3, prova, dai. Lasciala così, è una via di mezzo, ma non puoi aumentarla, perché se l'aumenti strappi, vai a strappare o si capisce un accidente. Riprendo io, Francesco, adesso già hai migliorato un po', adesso non è perfetta la radio, comunque già è più comprensibile, dai, prima era proprio messa male veramente, adesso io faccio girare per Eugenio, e oggi ti volevo fare un interrogativo, tu stai usando adesso il 3009 stai usando? Yes, confermo. E questa è la prova che quando dico io prendete un 3009 perché esce benissimo, perché esce benissimo, mi piace la modulazione e non c'è problema. Con il 3009 secondo me quando uno deve andare a spendere 200 euro non sbaglia, questo è il mio pensiero. Avanti Gianni. Anche il mio, anche a me piace, quello cromato. Sì, è quello cromato. Con che cosa? Con le MB più 5. È tutto cromato, oggi è solo il frontalino. Frontalino? Frontalino con i pomelli. Cioè il frontalino rimane grigio satinato, la cornice è cromata e i pomelli sono cromati. Ma ecco perché sono neri, io lo conosco così, io non ho mai visto tutto cromato Gianni, ma è dall'altro giorno che stai dicendo questa cosa, io non l'ho mai visto. Io ce l'avevo, il mio era uno degli ultimi, quello che ho venduto Gianni, ed era tutto cromato davanti, pomelli tutto cromato, tutta la fascia di davanti era tutta cromata, ma i capi erano neri. Oh Marco! Guarda, si può fare, se togli i gusci del Cobra 29 LTD americano, li vendono anche tutti i cromatti, però, cioè, ci vanno le dittate, alla fine meglio neri. Ma è una modifica però, cioè puoi ordinare i tappi cromati, ma di serie esce così, con tutto il frontalino cromato, i pomelli tutti cromati, bellissimo davanti, i tappi sono neri, io l'ho venduto l'uovo di pacca. Era bellissimo, tutto cromato davanti però, non cromato, ma anche i tappi, a me non piacerebbe con i tappi cromati, non stacca, è tutta questa cosa cromata, no? sembra fatta apposta, è bello così, tutto cromato davanti, con i pomelli tutti cromati, belli, e i tappi neri, io così ce l'avevo Gianni. Sì, no, ma comunque Gianni ha ragione, perché c'era una versione che la prendevano così, costava una ventina di euro in più di quell'altro normale, di quello con i tappi neri, però esisteva, l'hanno fatta la versione con i tappi tutta cromata, tutto completamente cromato, poi naturalmente è questione di gusti, c'è a chi piace e c'è a chi non piace. Vai Gianni. Infatti sono sicuro che era così, ce n'era una che c'ha i tappi neri, era il frontalino cromato, e poi ce n'era una versione che era tutta completamente cromata. E vabbè, comunque mi piace quell'apparecchio, mi piace, l'ho cercato e tutto è finito là. Comunque Claudio, sì, ci possono essere le versioni magari rare, edizioni speciali anche con i coprichi cromati. Per esempio c'è il Cobra 29 LTD Chrome che sembra un 3009 in America, però è soltanto AM, è tutto cromato. No, no, non mi piace il tuo cromato. Stacca benissimo il 3009 Superstar. Stacca benissimo, è bellissimo con i tappi neri, la cromatura tutta davanti e frontalino. È molto bello, io l'ho avuto, l'ho venduto, il mio raccolto, ed era molto molto bello, nuovo nuovo, era tutto blu. Aveva tutto il, quando è stata modificata, non a LED, tutto il frequenzimetro blu di serie, pagato un pacco di soldi, e il, lo strumentino blu, non messa i LED colorati, proprio fatto fare così. I pomelli, le ghiere dei pomelli si illuminavano in blu, ok? Si illuminavano in blu lo stesso, era bellissimo, molto molto bello. Va bene, facciamo girare, dai, avanti, Capri, riprendi. Come siete adesso? No, io ti sento sempre male, sempre male. Sei tutto paperinato, sei, sembri fuori frequenza, Francesco, scusami, io lo so, nel tempo fa l'abbiamo praticamente regolato assieme col microfono, ma evidentemente è successo qualcosa perché non stai uscendo bene, assolutamente, non è la modulazione che avevi un periodo. Molto brutta, tutta confusa, tutta distorta, non è chiara la modulazione, Francesco. Gianni, tu come lo senti a Uranio? No, come stai dicendo tu, lo sento tutto male di radio, tutto, non è lui. Chiedigli, posso? Chiediglielo tu. Francesco, sono Marco. Allora, pochi giorni fa è rientrato per un controllo e stavi uscendo particolarmente bene, avevi dei bei picchi negativi e la modulazione era limpida e brillante. E interrogativo, è lo stesso apparato? No, era questo, non è questo. Ah beh. Allora, questo è abbastanza un po'. Vedo un po'. Ma questo qual è l'IC720? Sì. Con l'SM8, scommetto, vero? No, il 908 sto usando, il 908 è, la V908. La V908. Non va bene quel microfono lì, Francesco. Quella radio andava bene con l'SM8, quello suo, allora andava bene, io quello che ti ho regolato, che ora abbiamo regolato l'SM8, non la V908, la V908 noi non l'abbiamo mai regolato, la V908 è un parametrico, se tu non metti bene le linee del parametrico esci così male, va regolato bene, ci vuole un sacco di tempo, pazienza, regolare tutti i parametri del parametrico. Scusa, io non voglio andare a dare il bugiardo a nessuno, per carità, mi ha servito, perché non mi piace. Quello che abbiamo regolato, era proprio questo qua, perché le SM8 non ce l'ho mai avuto. Ho avuto un SM6, ma non ce l'ho più con il microfono, l'ho dato via. Niente, tutto qua. Sto usando, l'altra volta abbiamo regolato questo AV908, abbiamo regolato, non era il SM8. Ok, questo sia chiaro. Tu vada non stai pensando oltre la regolazione perché è stata fatta già da un bel pezzo, già da un anno, passa pure di più. Ok, comunque era questo il microfono, perché il microfono per qua non era, c'è solo questo e basta. Bisogna che mi attenda a acquistare un altro, dai, questo qua. A quanto pare andrà bene per questo, per parito, ma per questo niente. Ok, dai, vedi un po' perché avevo passato di rompo il microfono, non lo so, è a fare. No, Francesco, sì, mi ricordo l'SMC, non l'SM8, che uscivi col 720 della ICOM. Non mi ricordo, Francesco, abbiamo regolato quello, tu stai dicendo così e va bene così, per carità, assolutamente. Però lì hai toccato qualche parametrico, perché non uscivi così con quello. Mi ricordo che andava molto bene, quindi bisogna riprenderlo e regolare i parametrici, il più 1500, il meno 1500, il 1500, bisogna regolarli di nuovo tutti, capito? Bisogna regolarli tutti e trovare una via di mezzo per riuscite bene, perché così è veramente, veramente brutta la modulazione, veramente molto brutta. Eugenio, lo senti così o tu? Sento un borbottio, ma non riesco neanche a tirarlo fuori. Porca miseria, non arrivi neanche da Eugenio. Oh, vabbè, Gianni Capello lo sente, 9:20, qua sei 8. Giulio, tu come lo senti? Meglio? No, assolutamente, è una radio brutta, molto brutta. Devo stare molto attento anche per capire quello che dice, perché se poco mi rilasso un attimino non capisco nemmeno, nonostante che lo sto sentendo, però non capisco quello che sta dicendo, perché le parole sono tutte sporche, insomma, poche parole, non sporche come aggettivo, ma sporche come vengono o modulate, tutto lì, non è quello il discorso. Io, Francesco, mi ricordo l'ultima volta che ci siamo sentiti, che c'era anche Gianni di Porto Torre, ti ricordi, io sono entrato per 5 minuti, ma sta riuscendo benissimo, non bene, benissimo, anche di segnale andava meglio, adesso sta andando proprio malissimo, evidentemente non è regolato bene, o perlomeno è una radio, non lo so. Vabbè, dai, facciamo girare, avanti Gianni di Sassari. Ehi, ora dai, e magari c'è una questione di regolazione, sono da regolare, basta, magari è toccato qualche parametro e adesso lo da mettere a posto, magari poi ti sposti e con Claudio lo ricordi, ce ne abbuglia Claudio. Avanti Claudio. Oh, scusate, comunque la compressibilità c'è, cioè io i passaggi li ho copiati tutti di Francesco. Sarà brutta ma è capibilissima. O sbaglio? Sì, io la capisco. Sì, ma anch'io la capisco, però. Ho già cambiato versione. Un modo brutto proprio di ascoltare le parole, ecco, e non può essere una radio accettabile, ecco. Diciamo che si può capire quello che dice, però io mi devo concentrare, perché se no non capisco quello che dice. Non lo so se poi dipende dalla mia radio, questo io non lo so. So solo che lui sta uscendo con una modulazione abbastanza messa male, sporca proprio. Facciamo girare per Eugenio, avanti Eugenio. No, io non lo capisco, non lo sento proprio. Sento un borbottio e niente. Va bene, comunque, perché mi hai discorso una cosa a Gianni doppio rumore. Allora, il mio ha il guscio nero, la cornice cromata, il frontalino grigio satinato e i pomelli tutti cromati, ok? Gamma. Va bene, quando me lo dai? Come già? Ho detto, quando me lo dai? No, cosa ti do? L'ho comprato un po' al negozio questo. Oh, cosa ti do? E poi cosa faccio io? Scherzo oggi. No, mi piace, se lo trovo in vendita, magari ci faccio un pensierino, là. E oggi, così a titolo di curiosità, siccome io ho visto questi giorni, nel 2009, che è praticamente simile al 2009 e tanti altri, ci sono 14 baracchini, sono tutti uguali, però cambiano il nome perché ogni ditta ce l'ha fatto il logo per conto proprio, no? E dunque, dimmi all'incirca, se lo puoi dire, cosa l'hai pagato da nuovo? Perché ho visto io che guardando le varie ditte c'è una differenza anche di 20-30 euro da un negozio all'altro. Vai ancora oggi? No, non c'è, io non ho niente da nascondere, non c'è nessun problema. Guarda, la fattura attaccata alla scontrina, attaccata al baracchino. Io tengo tutto in ordine qua, 186 euro. Ok, sì. No, aspetta un po', tu 186 euro, magari anche compreso il trasporto, ma io addirittura ho visto, sempre guardando il computer naturalmente, che ci sono negozi che lo vendono 226 euro, più il trasporto, si può immaginare. Poi ne ho visto altri che lo vendono intorno ai 200, altri che lo vendono intorno ai 196, insomma, i prezzi sono proprio tutti differenti. Ad esempio la IL Elettronica è una di quelle che lo vende più caro di tutti, mi sembra, se ricordo bene, 205 euro, una cosa del genere. Per dirti, no, dei negozi fanno i prezzi che vogliono loro, chiaramente, sono loro i commercianti, per cui decidono loro a che prezzo devono vendere. No, era solo una curiosità. Vabbè, grazie per l'informazione. Avanti Gianni Capri 2. Adesso c'è un altro microfono, un apparecchio. Ieri avevo il Cobra, oggi c'ho il Galaxy. Il mio preferito. Sì, questo è l'Elaxi. Prendo, però vi lascio perché devo fare un paio di cosette, poi mi devo organizzare e me ne esco un pochino col cane a camminare. Quindi vi saluto tutti, grazie delle due chiacchiere, se coincide più tardi, altrimenti a domani. Allora Gianni, io domani mattina dopo che porto il cane ti chiamo a casa, ok? Quindi dopo le 9:30 io ti chiamo e salgo a prendermi il caffè e a prendermi la radio, ok? Dammi QSL, poi vi saluto tutti, buona serata e buon proseguo di QSL. Ciao Flavio, dai, buona passeggiata col cane, a dopo. Vai Gianni, lo Perù. Ciao Claudio, vai a passeggio col cane. Capito, sto passando a breve, me lo sta a sé. Guarda, per come conosco io Gianni Capri 2 è una parola solo, quindi non ce n'è problema per me. Puoi anche andare a prenderlo, ma farete un viaggio a vuoto. Ciao Claudio, figurati. Tu dove vieni? Per come ti conosco non lo faresti mai, invece che capito, cosa avete capito? Sto scherzando. Non l'avresti mai fatto tu lo stesso. Tutta fruscia in scena, cazzo Claudio, no, c'è il microfono troppo alto, innesca. Bravo capito, tu sei un uomo serio. A me piace la gente così, no, che ci guarda qua che dice una cosa e poi ne fa dire un'altra. Ve ne è un bel. Guarda, devi andare tu Claudio, se no ti fa pagare la benzina. Perché se no se ne lo porti tu mi fai pagare la benzina Claudio, vero? O il gasolio? Io ando a mi piglio buon caffè. Eia. No, voglio chiederti solo una cosa, se hai altre basi da dare, che basi sono? Perché a me potrebbe interessare qualche base, se è una base che a me piace. E console uno, a me mi piace quello. Quello già mi piace. Quello ci possiamo mettere d'accordo. Avanti Giulio. Ok. Gianni, capi due, dimmi una cosa, l'orologio funziona di quel dinoite? Tutto funziona, l'ho visto funziona Giulio, è bellissimo, ce l'ho già avuto io quello, l'ho dato a Marco Scorpio, il console 2 a Gianni Capri 2, Gianni Doppio Rugli, l'ho dato io, ed era la radio di povero Mario Mao. Sono tutto io, ma non è il console 1 o il console 2? No, ma io stavo parlando del Lino Itti, non stavo parlando del console. Oh Gianni, io stavo parlando del Lino Itti. Tutte e tre uguali erano giù. Che modello è quello Gianni che vado a cercarlo, guardate? Sì, lo so, poi l'ho conosciuto anche, quello che aveva Mario Mao, io l'ho conosciuto, per cui non... Sì, no, ma così incuriosito, perché mi ricordo benissimo di noi, per la cronaca, era il primo baracchino che io ho comprato, però era il secondo come cosa, perché il primo di tutti avevo uno pony 6 canali, ma questo pony 6 canali non l'avevo pagato, avevo fatto uno scambio, avevo fatto con un ragazzo che gli avevo fatto due cassettine per mettere gli altoparlanti per andare nelle cantine a ballare, e siccome non aveva soldi mi aveva proposto con questo pony 6 canali e allora così, però poi subito dopo me lo sono comprato io quando mia principessa Maria, come accidenti si chiama, che purtroppo è morto, non me lo ricordo più, dai, sfocato, dov'è, adesso non mi viene più il nome. Avanti, è Francesco di Usimo. Costantino Fara era quello, comunque il Zodiac, il Bormal e l'Innoit sono tutti e tre uguali Giulio, perché uno io l'ho dato a Marco Scorpion ed era Innoit 23 canali più il 22 alfa ed era celeste, la cassa celeste e il frontalino era grigio. Sì. No, io ce l'avevo tutto grigio all'incirca come può essere il 440, un po' più chiaro però era quello che avevo io, ed era il primissimo baracchino che avevo speso i soldi io appunto per il baracchino, era il primissimo acquisto che avevo fatto per il baracchino. E poi che cosa? Ah no, l'antenna avevo comprato anche ancora prima, perché avevo già il Polmar, i primi soldi che avevo speso io per questa frequenza era l'antenna, la Grand Play dell'Allen, con i radiali metà in alluminio e metà erano in resina, tutto lì. Vabbè, dai. A parte quello, il microfono l'avevo autocostruito io, ed era di legno, una cosa che avevo copiato dal microfono SBE, l'avevo una volta, me l'avevano dato in prestito, io l'avevo copiato il circuitino e dunque avevo fatto quel lavoretto lì, e andava benissimo, non bene, benissimo. Avanti Eugenio. Sì, sì, riprendete che io sto facendo una cosa. Riprendi già io più lungo. Aspetta, guarda la parte. Poi mandami la foto. No, ma già lo conosco. Comunque Giulio, per farti sapere che su quella radio lì, sul Polmar, metto il corno del bue e te lo faccio sentire domani. Vedrai che esco uguale a questo. Ah, non ho dubbi. Questo sì, non ho dubbi. Ma te l'ho già detto già da un paio di giorni, usa un corno del bue che vedrai che va bene lo stesso. La modulazione non cambia. Sì, no, io il Polmar ce l'ho avuto, però era il Polmar che avevo io, non era da stazione base, era semplicemente da vettura, ed era un baracchino da 80 canali, che tra l'altro me l'aveva regalato un mio parente che l'aveva comprato per il figlio, siccome allora in quel periodo c'era un po' di maretta in frequenza e c'erano parolacce eccetera, e allora gliel'ha subito sequestrato e se ne è disfatto, è venuto da me un giorno in bottega, ha fatto: te Giulio, ti regalo questo baracchino, lo vuoi? Perché me lo stai regalando? Non lo usa tuo figlio? Ho fatto: no, perché ho sentito troppe parolacce in frequenza e dunque tu lo sai come la penso io, in effetti è un mio parente, questo qui è appunto me l'ha regalato, vabbè, dammelo. E per un certo periodo ce l'avevo anche in bottega, lo tenevo in ascolto in bottega, ed era un Polmar 80 canali, 40 più 40, era così, va bene, avanti Gianni Capri 2. Vado a portare il cane a dopo. D'accordo. Claudio si è allontanato per portare il cane e rientra dopo che avrà fatto fare la passeggiata al cane. Sì, no, ma io mi ricordo, il mio l'avevo dato a una persona, sempre parente, e lui mi aveva dato una tenda da campeggio con 7 posti, con i catini dentro eccetera. A sua volta quella radio lì poi lui l'ha venduta a Angelo Russo, il proprietario di Dreff, del negozio di abbigliamento del corso giù, Dreff, che erano la società, no, 3 persone, Russo, Elia e l'altro, non mi ricordo l'altro cognome, e la ditta si chiamava Dreff, e questo Angelo Russo aveva il baracchino mio con il microfono di legno che io avevo autocostruito. Vai Gianni di Sassari. Ehi, ehi, la storia della CB. L'ho guardata, non mi attira molto come estetica, mi piace più come radio, però come estetica non mi attira. Quello che mi attirava era il Royce. Tu ce l'hai il Royce, Giulio? No, noi sì, no, io ho il Comstat 25B vagonare, esteticamente non è un gran bel baracchino, però è semplicissimo, 23 canali, vagonare, che l'ho messo da parte solo qualche annetto che non l'ho più visto. Vai Gianni ancora. No, a me piace molto il Luis, mi piace quello lì, vabbè. E la mia intenzione sarebbe di farmi tutta la stazione in base, tutta la stazione in base, tutti i ripiani a stazione in base, eliminare quelli che ho e farmi tutta la stazione in base, ma la stazione in base che a me piacciono, perché sono tante stazioni in base che a me esteticamente non piacciono, mi devono anche piacere. Ah beh certo, se a uno non le piace un oggetto è chiaro che non lo può nemmeno apprezzare, anche se può dire sì e c'è bene, però magari averlo personalmente non le interessa. Sì, già è così. Cosa volevo dirti? Un'altra cosa ti volevo dire che adesso mi sfugge in questo momento. Vabbè, dai, poi se mi viene in mente te lo dico. Avanti Gianni Capri 2. Ehi, a quello lì, secondo me, quello che ha girato, che poi ha avuto che io ho dato a Claudio l'ha dato, non mi ricordo a chi, non so poi se sia quello o se sia un altro. Ok, non so se te l'ha detto nessuno o capi, ti stai tirando dietro un'idea questo, ti ho sentito da qualche ora fa che c'è questo tizio dietro, il mezzo, ok, perfetto, cerca di regolare qualcosa, forse c'è un cecchino stacca, non stacca lì nel microfono, controlla perché ti ha tirato dietro quel tizio, fatti gli occhi, ok, perfetto, Giulio, mi dovete dire qua ha toccato qualcosa, com'è adesso la modulazione? Diciamo che non è proprio chiara come ti ho sentito altre volte, Francesco. Sì, forse è migliorato un tantino, ma non più di tanto, però è sempre una modulazione abbastanza che a me non piace, insomma, ecco, brutta. Io la definisco brutta. Poi, non lo so, gli altri ti diranno qualcos'altro. Vai Gianni di Sassari. Vediamo un po' questa modulazione, che io ci stavo facendo un caso perché stavo con una cosa al telefono. Ritorno! Ok, adesso ho fatto qualche altra cosa qua, vediamo un po', 1, 2, 3, pronta, vedi un po' com'è adesso, vai. Adesso l'hai chiarificata un po', ma non del tutto, cioè sempre quello so che di saturazione, qualcosa del genere, come con l'attacco lineare ti satura. Adesso è molto meno di prima, ma un po' ce l'hai ancora. Vediamo adesso, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, vedi un po' adesso, questo microfono è un casino, se non l'ha regolato bene, eppure l'ha regolato bene, ha toccato niente qua, non lo so, vabbè, vedi un po' adesso com'è? Non è limpida, è un po' sporca roba in radio, mi capisci cosa ti voglio dire, non è limpida, diciamo che è accettabile, però non è limpida. Non lo so, vediamo un po' adesso, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, vai. Sempre così, Non so, così di me, dai, forse proprio la regolazione compressore, l'equalizzatore, non lo so, forse un ricursore magari abbassato, ma non sai cosa toccare qua peggiori. Inutile, va bene, dai, Roger, va bene, riprendi giù, attaccati, dai. Francia, qua può staccare la bocca dal microfono. Non ho capito cosa hai detto. No, ma stare più lontano dal microfono. Ti lo so, io credo sono a circa 70 centimetri di distanza, vedo un po' una trappola, adesso mi sono entrato di parecchio. Vedo un po' adesso. Adesso va un po' meglio, vero? Ma io penso che sia problema di potenza di radio, oltre che perché la saturazione esce sicuramente dalla potenza della radio. Prova a abbassare appena appena la potenza della radio, lascia il microfono con me e poi vi sentiamo se migliora qualcosa. Perché io sono convinto che è la radio che ha un po' di saturazione. Vai Francesco. Vedi un po' adesso, l'ho abbassato di una tassa, il power qua, l'ho abbassato di una tassa, com'è adesso, vedi un po'. Un pochino si è schiarita, abbassa ancora un po', vediamo un po' se migliora. Ok, l'ho abbassato di un'altra tassa, con questo due tassi, vedi un po', 1, 2, 3, troppa, come adesso. Vedi, adesso sta incominciando a sparire la saturazione, però il microfono è sempre troppo cupo, questo sì. Probabilmente le regolazioni non sono solamente sul microfono, ma anche sulla radio che bisognerebbe fare. E bisogna che con un amico ti sposti su un canale, magari è così ti possono dare dei ragguagli giusti, perché bisogna fare diverse prove, Francesco. Avanti Gianni Capri 2. Capri 2, quindi il console me lo stai pulendo, me lo stai preparando. Capri 2. Prendi Rubio Chita, lo console. Ascolta, guarda che domani salgo dietro le sedine di Claudio con il carto per prendermi il console 2. Sì, la scena. Sì, però devo dire che quando c'era Beppa Mario, qualcosa sulle due, a parità, scusa il telefono Gianni, riprende Marco. Si riprende. Avanti Tattalino, buonasera. Sì che c'è anche Eugenio, poi passa Eugenio. Sei avanti Eugenio, se mi ascolti. Ehi, ciao Natali, buonasera. Sono qua che sto facendo una cosuccia, un attimo. Scusate, dai, mi devo allontanare che mi hanno chiamato, mi devo allontanare, dai. Vi saluto tutti quanti, ciao Gianni, Eugenio, Gianni Capridue, Francesco, Marco, tutti quanti. Salutoli a tutti e faccio QRC. Vai Marco. Ciao Giulio, ciao, visto che Marco lo riprende, riprendo io, poi le lancio Eugenio che fa la girata. Ciao Giulio, ci sentiamo con QRC, dai. Gianni? Comunque, ciao Giulio, con QRC, ok. Io adesso ho passato un po' l'ingegnere della radio, adesso, e adesso vai a vedere. Sì, adesso è più chiara. Ah, più chiara. Aspetta un attimino, faccio un altro po', vediamo. Vedi adesso qual è adesso ancora, vedi un po', uno, due, tre, troppo, vai. Adesso già è chiara, aumenta la potenza, vediamo un po' se rimane chiara. Vedete il mic che è così e la potenza al massimo. Vedi un po', 1, 2, 3, troppa, ho dato un po' di potenza, vedi un po', 1, 2, 3, troppa. Ecco, qua vediamo un po', 1, 2, 3, troppa, vai adesso. Già va bene, già va bene. Ok, perfetto. Se tu ti va bene, allora così, allora, dai. Ok, perfetto, dai. Allora, riprendi, fai girare, dai. Ehi, Natalino. Via. Riprendi. Sì, non ne ho voglia, dai, vi ascolto, ero due ore ascoltandovi, non ne ho voglia di modulare, me ne è passata la voglia. Perché? Non lo so. Lo so, io già ho capito perché. Perché tu volessi apparecchi grossi, confusi. Di cosa quello? Non è neanche per quello. Come vuoi, va bene, avanti un giro. Su con la fritta, ottimismo, dai Natali, affuti dinni, pregati a saluti. Natali, ma chissà cosa, pronta. Che cosa? Quella che stai facendo stamattina con c'è. Già è pronta, perché? È interiore. Così, così, te lo sto dicendo così. Ma se buba sente allora. E per domani, già. Per la festa della mamma, ce l'ha fatta apposta. Ah, per la festa della mamma, allora la lasciamo, dai. Cavagava. Andare. Marco, ci sei? Avanti a che tocca? Un po' di bussucci. O meglio oggi è sabato, ma non vedi su? Sono tutti quanti a spasso. Dove se lei hanno visto che sta uscendo un po' di sole, anche se non venne, è uggiosa la giornata. Com'era la storia già? Dice che sono sbarcati degli stranieri, così è. E quando? Oggi a Pesumeo. Ne stavano parlando Claudio, forse lo sa Marco. Ma dove? Sardegna. Allora, vai, se sta regalando la coronavirus. Ma tu e io sono da Regga, di tutte queste malattie strane che hanno. Bisogna fare come certe nazioni, quando li vede nel mare mi traglieggia le mie. Allora, quando non ti vede nessuno li bombardi, via, fuori dai coglioni, questa gente. Basta adesso, cazzo, ne stanno approfittando troppo, hanno visto che gli danno vita, alloggio, tutto quanto, di là, pensione, tutto quanto, si cazzo andiamocene in Italia che stiamo bene. Noi stanno nei blocchi UE a morire di fame, cazzo, i nonchi, e a far morire di fame a noi, che siamo nel bel mezzo di una pandemia, boh, io non lo so che coscienza, ma poi farli sbarcare, chi cazzo gliel'ha detto di farli sbarcare? I nonchi si devono ribellare alla popolazione e mandarli via a calci in culo questi governanti. Ma che cosa vuoi fare? Se c'è gente... Cosa vuoi fare? Sennò che non ne capiamo più fedi. Parlami d'amore, Mario. Ottimismo, ragazzi, ottimismo. È il sale della vita. Oh, sono entrato stasera, cioè sono entrato, ho acceso quando ne stavano parlando, ma non ho capito bene la situazione. Perché che l'ha detto? Vergogna, chi sei chi d'altro, vuol dire il virus a Giuri. Allora Marco, lo vuoi e non entra, puzzinoso, cuocomane che non è altro. Ehi, allora avete fatto una nave di spagnoli nata lì. Capito, carica di coronavirus, allora non le buchiamo bene d'ora. Proprio così, non ne togliamo piede. Se avevamo tempo brutto ragazzi, c'è delle scariche elettrostatiche allucinanti, si hanno volato tutto, ha dato acqua forse da domani o lunedì, tempo brutto. Cazzo, ma non li potevano mitragliare e affondare la barca, cazzo, quando erano in alto mare. Cazzo di ara. Adesso mi Cagliari sono state niente riapertura di nulla. Sì, già l'ho sentito. Come fa? Se siamo sopra la soglia, deve essere 0,50, siamo a Sassari 0,90, quasi a 1. No, a Cagliari siamo a 0,90, a Sassari siamo oltre 1. Di soglia, quindi cosa di voi mandare? Dove vogliamo andare? Non hai capito? Stamattina ho avuto una brutta notizia da un amico che non apre più. Non apre più, ha messo il cartello vendesi, non apri più. Molta gente non può neanche riaprire perché sono ammazzati dalle tasse, dalla malagiusta, i racconti a tutti. Bel casino. Sono rientrato comunque io. Gianni, ci sei ancora? Io ho capito, il capito è andato a fare la spesa. No, tu l'hai vista quella radio, com'è bella? Grazie, devo essere sincero, esteticamente non mi piace tanto, mi piace come esce di radio, però esteticamente ecco un po' così, non mi attira molto, mi attira di più il Ruiz. Ah, tu già, tu sei venendo, una 500 o una Mercedes, quelle sono così, sono tutte uguali, io ce l'ho avuta, l'Inoite che avevo io, 23 canali, più l'11 alfa, era uguale a quella lì, capito? L'ho data a Marco Scorpio, l'avevo data, sono tutte così quella serie, però sono belle, sono molto robuste, sono in ferro, le cassone in ferro, capito? Lui c'è un altro tipo di radio già, c'ha le bande laterali, c'ha tutto. Questa non va nulla, lì cava la M, boom, e a me mi serve una radio così, vintage, quella è del 1970, hai capito, del 70-71, quindi eravamo ragazzini noi, perciò una radio che non aveva niente, ma a parte l'estetica, ha una bellissima ricezione, perché lo usavo l'Inuit, esce molto bene di radio, e mi va bene per fare due chiacchiere, me la devo mettere in ufficio, capito? E la voglio 2,20 e poi quella è nuova perché lo so Gianni ce l'ha nuova le radio. No, l'ho vista anche in funzione su internet, è una bella modulazione, ha bella ricezione e tutto. Però Claudio, io dico la verità, la radio mi deve anche attirare esteticamente. Ci sono quelle che mi piacciono, le tante di base, e quelle che magari escono bene, però non è che mi piacciono tanto. Questa è una di quelle. Non mi piace tanto l'estetica, però esce bene. Sì, ce ne sono tante, vinta, sì, ne ho avuto un male. Il console, ad esempio, esteticamente non era neanche bellino, però usciva molto bene. Ma era cassone in legno, quindi era un po' più complicato da sistemare, da fare. Infatti avevo chiesto a Giulio una volta se mi faceva i laterali, me li avevo fatti. Questa è più semplice, capito? Questa è più semplice. Beh, la migliore in assoluto dei vintage, che ne ricano, se rimane sempre il DAC, come vista e come tutto, anche come funzionamento, funziona molto bene. Però questa è già, è così, queste sono così, quella serie lì sono così. Io la prendo perché mi piace, non tanto di estetica come dici tu, perché non c'ha niente, ecco perché non è, c'è l'orologio meccanico e basta. Però mi piace perché escono molto molto bene, escono molto bene. E anche quella di Roberto in faccia ci va bene, lo stesso. Sì, sono radio che non sono fatte con economia come adesso, sono fatte con pezzi robusti, eccetera. Escono abbastanza bene in radio, sì, anche la ricezione. È come anche il gas, sembra di stereofonico, quando tu alzi la ricezione sembra di stereofonia. Il Magalax è già avanzato, non è vintage, non cioè è già vintage, però è già più avanzato, quelle sono così. Se è quarzato, il Galaxy è quarzato, è Galaxy a schede già, la tecnologia è diversa, quello è a quarzi, quello te lo faccio vedere aperto, intanto volevo aprire per dare una passata di spray per contatti, le do una bella pulita, la faccio luce a luce, già è nuova, perché lo so che già ne l'avevo già vista, nuova nuova, però io la faccio come di qui. Ed è a quarzi, capito? È a quarzi Gianni quella, non è a PLL come quelle vintage che ce n'è a PLL, non a quarzi. Questa è proprio quarzata come la volevo io. Come la volevo io, perché io ne ho vintage, perché l'Elbex non è vintage, il Dacchi non è vintage, il 48 non è vintage. Sono tutti vintage. Il Perception che ho io non è vintage. Sono tutti vintage. Oh, a quarti io non ne avevo più, allora me la riprendo, capito? Perché l'ho data a Marco uguale a quella, solo che anziché essere polmare è Noit. Claudio, gli ho fatto la portata a Gianni KP2, gli ho detto che domani salgo coricato le sedile di dietro della macchina tua, perché sennò se ci beccano vado a prendermi il corso di uno. E lui per te sta andando a fare la spesa veloce, rispondimi, va bene, va bene. Ne ho dato parecchi, gli ho dato il Courier, il Console, il Perception, il Simba e ne ha già del radio a Gianni. Tu immagina che io ne avevo 21 del radio Basi, 21, 21, Giulio già se lo ricorda quando abbiamo preso le misure per le basi, per la scrivania, li ha fatte proprio a misura e le ho divise tra Gianni Capri2 e Roberto Quadrato, anche Roberto ne ha dato un bel. Roberto ne ha dato un bel, ma belle veramente, Roberto ne ha dato il Sommer Camp 101 DX che è la fine del mondo, base, lo stesso, che è un po' più piccolo del DAC, ma guai a toccarglielo, ne ho dato, e già intanto io non ne faccio più niente, non... La passione ce l'ho sempre, però ne avevo troppe, tanto ho l'armadio pieno di roba. Mia moglie ha detto, quando mi svuoti quell'armadio mi fa una cortesia, così lo uso a mettere un po' di roba tra i Steve e Bernardo. Capito? Che ho qua in camera mia ed è mio, pieno di radio, di pezzi di radio, di microfoni, ne ho 7, strumenti, di tutto faccio, capito? Va bene, dai. Chi c'è rimasto qua? Tu e poi? E poi c'è Natalino, Marco non ha risposto, Eugenio, e poi mi sa nessun altro, tu e io. Facciamo la casba, Claudio, facciamo la casba e veniamo tutti. No, già, non ci riesco a stare stressato a dire. Io a stare senza radio non ci riesco, capito? Anche se non entro io devo accenderle, devo vederle, se non le vedo sto male. Questa te l'ho detto, adesso metto la multibanda via da San Francesco e me lo metto in ufficio, questo mica deve rimanere qua. Ma non tutte, no, quella che c'è nell'armadio che non ti servono ancora, quella che c'è in più, anche io ne ho in più. Ne ho sopra il mobile, ne ho omologate da vendere, insomma ne ho... C'è anche quella che c'è in concessione, che non la sto più usando, dalla 48 Plus, che è nuova. Non la sto più usando, l'ho messa da parte e non la sto più usando. Non so perché, però non la sto usando. E vabbè. Ti stufi poi, capito, di vedere sempre se sei radio e non li usi. C'ho un portatile, insomma, un aglio di roba. Io ti mando la foto del portatile, lì ho una scrivania piena. Ne ho 2, 4, 6, 8. Ma portatili, però non giocattoli, portatili. Portatili pagati anche un bel. Sono portatili della Icom, cioè portatili digitali, sia quello in V che quello in U, che costa una barca di soldi. C'ho il Vox, ne ho 2. Ce ne ho. Ne ho un bel portatili già. Sono pieno di portatili, di radio, di balle di polvere. Oggi lo sai cosa mi hanno dato? Ah, un B300P, un lineare, che ci mancano i fusibili, ho provato a fare il ponte per accende perfettamente, l'ho anche provato, devo comprare i fusibili nuovi lunedì, ho già tutto pulito, riordinato e messo dentro l'armadio anche quello, poi c'ho 747, poi c'ho il coso, come si chiama? Te lo volevo dire in fretta. Vabbè, non mi ricordo la marca. Comunque un altro lineare da 200 watt per le V. Ce ne ho un altro, quello HF che è dentro l'armadio. C'ho l'altro grande per la 27. Naggio, so gubbiano di roba. A chi la dai? Tanto non te ne pagano già. Non te ne pagano. In questo momento non ti pagano in nulla, niente. Poco mercato c'è adesso. Ma il volume che stanno mettendo dei CB, amico CB, tutti quelli lì. Non so se li hai visti. Guarda, io per gioco così mi abbiamo messo il DAC su un sito con la Siciliano. Mi hanno telefonato i 20, non so le offerte che ho avuto, no? Le offerte che ho avuto, a regalo, massimo 200 euro, T150, T120, ho detto ma cosa stai qua? Uno gli ho risposto, ma cosa pensi che mi serve il pane a me, no? Ma ti pare a te che io ti do una radio del genere a 120 euro? Gli ho fatto la foto di quanto l'ho pagata a $450 e quella radio da qua non esce meno di 350 euro. Chi la vuole mi dà 350 euro e boh, e non la do, ma dovendola dare meno di 350 euro non la do. Allora sai cos'è, Cla? Che ci hanno sentito parlare, sono gelosi che mi ha dato il 440 a 50 euro, vabbè, ma noi non sanno il rapporto che abbiamo, rapito pure Chihuahua. Pittsburgh con Cimbabwe vanno d'accordo, ma io da giudizio non dire niente oggi. Poi vedi, adesso tutti mi chiamano che vogliono le altre radio e non le posso dare, perché adesso c'ho solo il 430 e il 140, se il 440 l'ho dato a te, non è che mi posso vendere pure un altro. Allora la gente non lo sa, io ho fatto male a parlarne. Io ti ho giudito, non di nulla, invece tu subito, sei proprio un pitbull. E mi è scappato, non lo faccio fare un commissario. Allora, poi c'è l'altro fratello, anche fratellastro, sta cucciando il microfono, quindi. Quindi adesso siamo anche senza microfono, che tutto tace. Ciao, Cla. Tutto ok, sto lì. Avete un barriere da levami, noi innaffiati, domani va a levami. Ehi, già io tutto ritirato, stavo costruendo un mobiletto fuori. Stavo a dire, sono andato a Brico, mi sono preso la troccatrice per legno, così bella, guarda. Ho fatto dei lavori di taglio di legno, così perfetti, che. Allora, a me taglio di legno mi fa sì, ma sono Giulio. Mi fa sì, ora non mi fa sì più. Adesso vado a rompere le scatole ad Andrea Oceano, che è sempre in ascolto, non entra mai. Io già si vuole dire di Andrea Oceano. Oh, yeah. Ti stavo ascoltando poco fa, c'è gente che non va di là. Ma io preferisco il problema, non nasce uno. Ma la stessa cosa ti dico, no, ma non è riferito proprio che non ne hanno, capito? Non è quello il problema poi. Ci mancherebbe. Il problema è che non ti ne pagano in proprio, lo vuole a regalo la cosa, hai compreso? No, a regalo a casino, comunque c'è Eugenio. A casino, io strompo l'apparato, bello come dico io 3, 4, 500 euro anche contanti subito, non lupia. Io lo pago, non c'è problema, capito? Non vado lì a tirare il prezzo, quanto ne vuoi, to. Se lo guardo, lo vedo, lo funziona, sì, perfetto, ok. Non sto lì a pensarci due volte, a abbassare il prezzo, ma che cazzo, se io sto con l'apparato costa, perché devo guardarci meno, la porto bello, fa. Bello, cala, si salta un ecco, euro 500. No, 500 sono anche il culo. Allora, grazie di 20. No, io sono di apparati Siri, ma cosa che ti butto? Quello che c'hai tu, giustamente, massimo 250, perché già lo sai, 200 euro, ne ho già comprato uno, mi arriva da fuori, mi sta arrivando. Ho interpellato il mio cugino che è pure a Milano, ha già fatto il culetto, già, e me l'ha trovata, 200 euro, me la sto spedendo, lunedì me la sto spedendo, me la finisce. Vendo Galaxy Uranus 100 euro, io sono più barato. Non mi piace. Se ognuno vuole questa radio, diamo gioco io. Sì, ma il prezzo del Saturn Echo è quello, 200, 250, è il prezzo suo, va bene, perché è un base, perché c'è tutto quello che serve, l'ho sempre detto. forse è il miglior baracchino che esiste per la 27 perché è molto completo, però non parliamo di oltre 200 euro perché non se li fa assolutamente. Ne ho sentito di pazzi 300, 350, ma te ne dico, io per 300 euro mi compro un 140 che è 4 volte meglio del Galaxy, se permetti, capito? Però il prezzo del Galaxy è quello, 200, 250 euro se li vale. Come perfetto, è tutto, non c'è un graffietto, nulla, perfetto. Già, ti ricordi il primo che ti ho dato io? Te lo ricordi? Ne ho avuto tanti, ne ho avuto 5 o 6, adesso a ricordarmelo, mi sembra di sì, che era nuovo. Era nuovo, ti ricordi che era di un radiomatore di Olbia, che ce l'avevo dentro la macchina, che l'hai preso subito. Quello tu l'avevi pagato 200 euro, ma era nuovo di pacca. Lo so, ma adesso hanno acquistato un valore che se tu vai su internet c'è gente che addirittura si è permesso di vendere 480 euro, l'ho visto io. Ma il coglione chi lo compra 480 euro, permettimi. Cioè io posso dire che il mio 430 vale 500 euro, lo vendo 500 euro. E il coglione chi lo compra? Perché non vale 500 euro, ne vale 350, ok? Quindi non puoi, se io lo vendo a 500 euro, se c'è lo stupido che lo compra, ben venga. Ah, ma io a Torino gli ho fatto la battuta, perché lui ha detto io darei anche 500 euro, e allora gli ho fatto la battuta anche perché non lo vendo. Dovrei trovarmi proprio in mezzo alla cacchetta per venderlo, non lo vendo questo qua. Ho capito già, io l'ho detto così perché giustamente, non per vantarmi, ma soldi non mi mancano, sia che ho in casa che sia che ho il mio conto, quindi per dirti, oggi che io ci ho messo, mi presento una persona che mi vuole vendere qualcosa e ci vale veramente quello tot, io appena 500 euro lo dopo uno sopra l'altro, non ho problemi, capito? Non so come qui ti stavo spiegando poco fa Claudio, che abbassa il prezzo, ho detto troppo, oppure 120 euro, cioè 50 che ho sentito Claudio, quelle gente buche di fame, ma non tenate, se vuoi una roba buona la paghi, se vuoi modesta, prendi la modesta allora, io per tenere la modesta mi gioco questo. Ma è da calcolare sempre che questi apparecchi sono tutti apparecchi che hanno fatto il loro lavoro, che hanno tutti i componenti che hanno lavorato, quindi da un momento all'altro è da mettere in conto che si può rompere qualche componente, usurare eccetera eccetera. Io se dovessi vendere questo qui magari ti capita a te che a me non mi va, perché poi ti capita a te, ti si fulmina un coso, un transistor, una cosa, tu dici cazzo, metto l'apparecchio che non andava bene, capito? No, ma io giustamente sono fatto su delle parecchie, se non ha cazzato un transistor non è che costa molto, fai la bugiarlo con parecchi, quindi faccio portare da una persona seria, non c'entro un cimillotto, lo vado a portare aggiustando un paracchino, se un paracchino è serio lo porto una persona seria, tanto che ha negozio tutto quanto. Ma questo qua va benissimo, a parte gli ho cambiato una volta, cos'era qua? Una resistenza che c'era, che era partita e non mi sentiva nessuno, cazzo facciamo possibile finale, poi c'era una resistenza. E del modulatore però non era niente di grave. Boh, tutto il resto è a posto, non è mai stato toccato dentro, è perfetto. Tu immaginati Tony che questo 440, io ce li ho tutte del Radio Kempf, ma questo 440 è stato revisionato 2 anni fa, sai se vuol dire revisionato, mi pare revisionare un 440 e uno 200 euro, secondo te io cosa devo andare a metterci in mezzo, la radio si vale 300, no me ne dai 500 perché io ne ho speso 200 per revisionarla, queste radio vanno revisionate ogni tanto, perché se tu non le revisioni ti lasciano a piedi, capito? Quindi se il valore è di 350 euro, 350 euro per vendere, non è che poi, ma io ci ho speso 200 euro, teni dira, capito? Molta gente ragiona così, ma costa 100 euro nuovo, 50 euro è troppo, 40 le vuoi, non gli ho compreso perché si arriva sempre a questi discorsi, se io lo sto vendendo 50, 50 mi devi dare, se non ti piace prenditene un altro, cosa me ne affutta a me? Infatti, ma la voce di notte barzelletta, allora questa persona era anche un CB, non modula più da anni, e niente, mi sta vendendo una moto, 750, non dico la marca, non dico l'altro, comunque, e io ho detto sì, mi interessa, poi ho avuto dei problemi per tenere il disco e non ho detto più niente. Se non che quest'anno l'ho chiamata, e con la moto ce l'hai, dice sì, e me la vendi adesso, dopo un anno, dai, 900 euro, va benissimo, perfetto, ci vediamo, faccio il passaggio, me la giusta, tutto ok. Arriva il culmine che mancava quasi un giorno per andare a fare il passaggio e mi fa, sì ma devi mettere la batteria, e beh io devo mettere, e ti ho mettito la batteria, se te la metto io dice 1000 euro, allora fa una cosa, ti vedi la moto e va a far culo, ma ti pare che io vedo la macchina mia senza le ruote o senza la batteria, ma che cazzo mi si dice?